e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Odio i lunedì. Anche la scienza conferma ciò che in fondo abbiamo sempre saputo: lunedì è una infinita e pessima giornata. Per fortuna, Deborah, mi verrebbe da dire. C'è cuore denari. Vale anche per noi, perché stamattina è proprio partita in salita, direi, in salitissima, guarda. Ma noi ce la faremo. Sì. D'altra parte, il primo giorno della settimana non è solo il più difficile, ma vanta un altro primato. Secondo infatti uno studio di un team di psicologi dell'Università di San Diego, lunedì è il giorno in cui gli internauti passano più tempo ad informarsi sui problemi di salute. Gli autori di questo studio hanno scoperto che il picco settimanale di ricerche di questo tipo si registra proprio il lunedì. Il motivo, bene, presto detto, l'andamento ricalca quello dell'incidenza dei disturbi di salute. Infatti i dati a disposizione indicano che problemi come pressione alta, attacchi di cuore sono più frequenti nei primi giorni della settimana. Confessate anche voi, avete googlato i temi di salute che riguardano i valori della vostra pressione o la salute del vostro cuore? Allora adesso stop, non googlate più, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24, raccontateci se il vostro cuore batte per noi, batte per cuore denari, no, a parte tutto ditecelo, ma diteci anche quanto batte il vostro cuore se accelera, ma siate pronti anche a raccontarci e a darci i valori della vostra pressione. Oggi daremo i numeri del nostro cuore. A proposito, vi ricordate l'ultima volta che avete misurato la pressione e l'ultima volta di cui ne abbiamo parlato di recente? Esatto, oggi torniamo perché c'è una notizia di attualità da commentare col nostro esperto. Andranno subito a googlare per ritrovare l'ultima puntata di Cuore Denari. Per i denari, un lunedì che parte decisamente in velocità. Si susseguono le notizie, le avrete sentite, su questo decreto salva banche che è stato approvato proprio ieri da un consiglio dei ministri flash, 20 minuti circa, ma diciamocelo Nicoletta, per richiedere un consiglio dei ministri di domenica vuol dire che di sicuro l'argomento non è da sottovalutare. Certo. Allora, si tratta di un via libera ad un piano di salvataggio vero e proprio per quattro istituti di credito italiani: Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cari Chieti. Cosa significa? In particolare se lo chiedono i clienti di queste banche. Allora, intanto, se siete tra questi potete iniziare a chiamarci, a scriverci 800 24 00 24 349 238 6666. Si faranno delle domande, però anche tutti gli altri, lo possiamo immaginare, perché chiaramente per salvare delle banche in difficoltà servono dei soldi. Chi li mette sul piatto? Sono soldi pubblici? Pare di no, perché pare che arrivino dalle altre grandi banche italiane, ma in ogni caso la cosa riguarda tutti e a noi interessa spiegarvela questa mattina. A tra poco. Sento sempre delle gran formiche nelle gambe, nei piedi. Insomma, dottore, mi sono proprio una tiella vecchia. Sarà un fatto di circolazione, signora. Lo credo anch'io, veramente ho avuto sempre la pressione bassa. Sì. Quant'è? Aspetti. Sentiamolo. 120, signora. È un po' bassa, dovrei avere 130, 140. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Meglio bassa che alta, no? Tante parole, meglio averla bassa che alta. Parliamo di pressione. 800 24 00 24, chiamate il nostro numero verde per dare i vostri numeri, massima e minima, sistolica e diastolica, o se volete calcolate anche la differenza tra i due valori. Non li conoscete? Bene, allora misurate il numero dei battiti del vostro cuore, la frequenza cardiaca. I compiti li ho assegnati, adesso tocca a me, quindi vado subito a presentarvi l'ospite di oggi. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Claudio Borghi, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti voi e grazie infinite di questo invito. Professore, oggi con lei diamo i numeri e iniziamo da un numero che ha fatto discutere: 120. Infatti l'ultima volta che ci siamo sentiti avevamo anticipato le novità emerse dalla presentazione dei risultati di un grande studio, lo studio SPRINT, è un trial finanziato dal National Health Institute, che suggeriva di abbassare sensibilmente l'asticella del target di sistolica previsto dall'attuale linea guida, portandolo da 140 a 120. E ricordo che lei, chiamato a commentare la notizia in tempo reale, aveva invitato alla cautela, buttando un po', come si dice, acqua sul fuoco. Allora, sicuramente i nostri ascoltatori ricorderanno le accese polemiche che lo studio aveva provocato, ma adesso la situazione è più chiara e più rassicurante. È così, professore? Sì, molto più chiara, molto più rassicurante, prima perché è stato pubblicato questo lavoro, mentre quando ci siamo parlati l'altra volta c'era soltanto una sorta di lancio d'agenzia, quindi una cosa poco ortodossa per la medicina, soprattutto per la medicina che voglia cambiare radicalmente le abitudini e i consigli che sono stati dati fino a quel punto. Oggi c'è un lavoro scientifico, ci sono una serie di commenti di accompagnamento che fanno vedere come questo risultato sia stato ottenuto in soggetti già trattati in precedenza con terapia antipertensiva, quindi nei quali si è soltanto proceduto a spostarsi un po' più in basso, con l'esclusione dei pazienti diabetici che quindi non rientrano in questa logica, e considerando fondamentalmente il fatto che noi abbiamo sempre saputo che c'era una fetta di pazienti che potrebbe tollerare valori di pressione più sfidanti, quindi anche fino a 120, quindi non c'è assolutamente nulla di nuovo, ma la media di soggetti ipertesi ancora deve rispondere alla regola precedente del 140-90, perché qualche collega intelligente negli Stati Uniti è andato a rivedere a che percentuale di popolazione si potrebbe applicare al meglio il risultato dello studio SPRINT, e sono arrivati a una percentuale non superiore al 15%. Perché togli questo, togli l'altro, poi alla fine... Quando anche l'informazione fosse esatta, o quando anche dovesse diventare una sorta di regola, vale per il 15% della popolazione ipertesa, che è esattamente ciò che noi facciamo oggi. Oggi io, se vedo un paziente che ha la pressione e può tollerare valori più bassi, sapendo che lo posso proteggere ulteriormente, già lo faccio di essere un pochino più aggressivo nel trattamento, non c'è bisogno che me lo insegni lo studio SPRINT. Allora, oggi, occupandoci della nostra pressione, ci occuperemo anche del nostro cuore, di cui la pressione è un po' la cartina tornasole. Se si considera che la pressione è alta, l'abbiamo detto tante volte, uno dei principali fattori di rischio delle malattie legate al cuore, che nel mondo una persona su tre ne è affetta, si capisce l'importanza di tenerla sotto controllo. L'ipertensione non diagnosticata e non adeguatamente trattata mette molto a rischio la nostra salute nel breve, medio e nel lungo periodo. E insomma, il messaggio che vogliamo dare oggi è che fare finta di niente ci espone a dei rischi elevati. Ma la buona notizia è che con piccoli accorgimenti i danni si possono evitare o limitare sensibilmente. Ancora oggi allora vi invito a raccontare al nostro numero verde la vostra ricetta per una pressione perfetta. Cosa fate? Cosa evitate? Vi siete messi un po' a dieta? Fate attività fisica? Fate delle riduzioni, delle sostituzioni a tavola? Professor Borghi, questa è una puntata che ruota intorno ai numeri e non ci siamo limitati a chiedere quelle della pressione, ma abbiamo chiesto anche il numero dei battiti al minuto. E c'è una ragione che lei ci spiegherà, vero professore? C'è una relazione tra frequenza cardiaca e pressione? C'è una relazione fra frequenza cardiaca e pressione, c'è una relazione fra frequenza cardiaca e malattie cardiovascolari. La prima è molto più solida perché nella struttura del valore di pressione arteriosa la frequenza cardiaca entra come uno dei determinanti principali. In termini tecnici si dice che la moltiplicazione della frequenza cardiaca, quindi dei battiti cardiaci, per il volume di sangue che il cuore è in grado di pompare ad ogni battito è quello che determina il valore di pressione. Quindi capisce chiaramente che in questa semplice moltiplicazione, voi che vi intendete di conti, di finanza e di tutte queste cose, sta esattamente il segreto del rapporto tra la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Vedi? Voi che vi intendete, ormai sono diventata... Adesso vi intendete anche di medicina, perché io veramente ogni volta che sento le prefazioni rispetto a quando ci sentivamo le prime volte, stupisco, perché lei soprattutto ha acquisito una capacità di destreggiarsi in tutti questi meandri della medicina clinica, teorica e pratica, che incomincia ad impaurirmi. È necessario che sia un po' più reticente. Se volete me ne vado, se sono un po' un terzo incomodo stamattina. Allora adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e le autostrade, ritorniamo subito dopo insieme, c'è Domenico che ci aspetta, ma a proposito di numeri aggiungerei anche un 5, vi spiego subito dopo perché. Batti il 5. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Cuore e denari. 3 per 5, 25, 6 per 3, 33, 2 per 8, 48, 3 per 9. Siamo tornati oggi in linea con noi, abbiamo il piacere di avere il professor Claudio Borghi, che è presidente della SIA, la Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa. Parliamo di pressione, dateci i vostri numeri, ma parliamo in generale dei numeri che fanno bene al nostro cuore, quindi un numero verde per raccontarci la vostra ricetta. A proposito di numeri, metto subito il 5, diamoci il 5. Secondo uno studio dei ricercatori della prestigiosa Università di Harvard, pubblicato sulla rivista Circulation, 5 tazze di caffè potrebbero essere la ricetta dell'elisir di lunga vita. La ricerca che è stata condotta su oltre 200.000 persone in un arco temporale significativo, parliamo di 30 anni, ha sottolineato che il consumo moderato di caffè faccia bene al nostro cuore. Insomma, una buona notizia, professor Borghi, per chi come noi ama il caffè, no? Buono. Molto buono, molto. Noi l'abbiamo sempre sostenuto questo, alcune volte probabilmente. Siamo avanti, professore, cosa dobbiamo fare? Ne abbiamo parlato. Devo dire che ancora una volta sono stupito dalla sua rapidità di aggiornamento, perché questo lavoro è uscito esattamente il 16 di novembre, oggi siamo al 22 e le notizie arrivano molto rapidamente, quindi a quanto pare non solo quelle finanziarie ed economiche la vostra redazione. E mi vuole fare concorrenza, professor Borghi, certo. Cosa dobbiamo fare? Lo faccio. Io cerco con i mezzucci che ho, cerco di fare il meglio possibile, però in questo caso devo dire che è stata una grandissima conferma, soprattutto perché viene dopo alcuni rumors che voi certamente ricorderete a seguito della querel carne malattie neoplastiche. Sì. Qualcuno aveva immaginato che la puntata successiva di questa querel sarebbe stato caffè verso malattie neoplastiche, cosa che non può esistere perché non ci sono i presupposti perché questo si manifesti. Questo studio veramente, come si dice, taglia la testa al toro e dice che fino a 5 tazze di caffè distribuite su un arco temporale di parecchi anni, come è stato osservato, possono ridurre significativamente la mortalità per tutte le cause e verosimilmente la mortalità cardiovascolare. L'aspetto importante è che hanno cercato di capire gli sperimentatori anche che cosa interferisse. In questo caso possiamo dare un duplice messaggio. Sì. Ciò che interferisce con questo beneficio è il fumo. Se un paziente beve caffè ma contemporaneamente fuma, l'abitudine al fumo riesce a distruggere la quasi totalità del beneficio legato all'assunzione di caffè. E questo è importante perché spesso le due cose fanno di pari passo. Io ho molti amici che dicono: prendo il caffè perché dopo mi posso fumare una sigaretta. È un'abitudine da perdere questa. Andiamo subito a Domenico che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Domenico, come sta? Mi sentiamo bene, non sono problemi. Volevo dirle per quanto riguarda la pressione. Dunque, io generalmente, ma da sempre, io ora ho 66 anni, però anche quando avevo 25-30 anni avevo sempre la minima un po' alta, intorno dagli 80 agli 87, mentre la massima, diciamo che si stazionava sempre fino a 130, ora c'ho 140, diciamo come massima. Il problema è questo, che io alcune volte ho il problema, diciamo, di addormentarmi. Sì. Perché quando mi metto sulla parte sinistra sento i battiti cardiaci e sembra che uno si alza un pochettino, no? E quindi ha problemi proprio a prendere sonno. Senti, fino a quando il cuore batte noi siamo tranquilli, meglio sentirlo. Esatto, forte e chiaro. Ma sentiamo che cosa ci racconta il professor Borghi. Professore, che cosa le dice questa... È un fenomeno abbastanza comune, è del tutto innocente, nella grande maggioranza dei casi dipende semplicemente dal fatto che cambiando posizione ovviamente il nostro cuore sta all'interno della gabbia toracica, ma non è incarcerato all'interno della gabbia toracica, ha una certa libertà di movimento che deriva di fatto dalla lassità di alcuni legamenti che lo tengono collocato lì, e quindi ovviamente cambiando di posizione può muoversi e il battito generato dallo svuotamento del cuore o dal passaggio del sangue nel primo tratto dell'aorta, che è quella più imponente, può essere percepito alcune volte. Ci sono parecchi pazienti che hanno questa esperienza. È una variante anatomica, ma non vuol dire assolutamente nulla dal punto di vista clinico. Il nostro ascoltatore può dormire sonni tranquilli. Andiamo ad Agostino che ci chiama da Palermo. Buongiorno Agostino. Sì, buongiorno, grazie per la richiamata. Io ho 50 anni, volevo veramente raccontarvi come in effetti un po' di dieta e la palestra hanno cambiato un po' il mio stato clinico. Io ho avuto diagnosticato un diabete di tipo 2 circa 3 anni fa. Sì. E quest'anno, all'inizio anno, le cose erano peggiorate moltissimo perché avevo delle punte di 270 con la glicemia. E la pressione era dai 160 come massima ai 110, insomma un quadro clinico disastroso. Il medico curante mi ha imbottito di pillole in lungo e largo, sono riuscito nel giro di 3 mesi, negli ultimi 3 mesi, a finalmente fare la dieta per i 10 kg e adesso prendo soltanto la metformina 500 e la pressione è 130 su 75-80 e la glicemia è scalata anche a punti di 80-85. La morale qual è? Credo che si dice sempre, ma insomma poi alla fine tocca soltanto applicarla, che una corretta alimentazione e l'attività fisica hanno un gioco davvero pazzesco. Io, nel mio caso, parla chiaramente questa cosa. Vedi, Deborah direbbe: lo incidiamo sulla pietra. Esatto, lo scolpiamo. Complimenti intanto a Agostino, una bellissima voce. Sì. Passo, anche perché sta la dieta Palermo, piacere. È durissima. Professor Borghi, lei ce la farebbe? Stare a dieta a Palermo, io non ce la faccio a nessuna latitudine a stare a dieta, faccio una certa difficoltà e devo stare lontano dal cibo forzatamente, perché se mi siedo lo consumo. A Palermo men che meno, perché soltanto il pensiero di Palermo mi induce un riflesso pavloviano come quello dei cani, mi aumenta la saliva, per cui certamente a Palermo non riuscirei a stare a dieta. Però devo dire che ciò che il nostro ascoltatore racconta come propria esperienza è esattamente il paradigma di ciò che noi vorremmo tenere, di quello che diciamo regolarmente. Cioè, noi stessi siamo artefici di gran parte della nostra salute e molti aspetti, soprattutto quelli legati alle malattie metaboliche, sono correggibili forzatamente dai farmaci, sono molto più correggibili dalle nostre abitudini. Quindi è un consiglio che sicuramente andrebbe esteso a tutti gli altri ascoltatori che si trovano nella stessa situazione. Allora, tra poco dobbiamo dare la linea al nostro GR. Intanto noi sappiamo che la pressione ha delle variazioni fisiologiche: più alta al mattino, al risveglio, si riduce lievemente durante la giornata e tende ad aumentare nuovamente verso sera, per poi abbassarsi durante il sonno. Qual è il momento migliore per misurarla? Un ascoltatore ci scrive: è vero che la misurazione che vale è la terza, presa da alcuni minuti dalla prima? Di questo parliamo naturalmente subito dopo il nostro GR 800 24 00 24, vi aspettiamo. Angelo, non prendere impegni per il 2 di dicembre. Che cos'altro abbiamo in agenda? Ma è possibile che devo dirti tutto io? Saremo tutti alle 20.30 all'Auditorium Gruppo 24 Ore in via Monte Rosa 91. Per Chiedimi se sono felice live. Sì, mi ricordo, l'ho segnato sull'agenda, segnatevelo in rosso anche voi. Sarete lì con noi, avremo diversi ospiti e parleremo della felicità. Che cosa ci rende felice, dei nostri amici animali, e come noi possiamo rendere felici. Per ricevere l'invito della serata dovete andare sul sito di Radio 24 e compilare il forum dedicato all'evento. Ciao! State ascoltando un programma offerto da Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Cuore e denari. Torniamo ad occuparci del nostro cuore e soprattutto della nostra pressione. Che cosa fate per tenerla sotto controllo? Innanzitutto la misurate, allora 800 24 00 24, diteci quando, perché questo sarà il nostro domandone: qual è il momento ideale per misurare la pressione, soprattutto che valori avete, ma anche che cosa fate? Curate la vostra alimentazione, utilizzate integratore, fate uso di rimedi fitoterapici, puntate sull'attività fisica, avete iniziato a camminare, andate in palestra, fate yoga, meditate, chiamateci e raccontatecelo. In linea con noi abbiamo il professor Claudio Borghi, che è presidente della SIA, la Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, che aiuta i nostri ascoltatori a destreggiarsi sulle novità che arrivano sui valori della pressione, ma soprattutto per dare ai nostri amici delle indicazioni per tenere i valori della pressione sotto controllo. Professore, abbiamo la domandona di oggi è: qual è il momento ideale per misurare la pressione? Ma intanto vogliamo ricordare i numeri della nostra pressione. Professor Borghi, quali sono alla luce di tutte queste pubblicazioni? Alla luce di tutte queste pubblicazioni direi 140-90 è il limite superiore di normalità, quindi la pressione dovrebbe stare al di sotto di questi valori nella quasi totalità dei pazienti. Possiamo concedere 10 mm di mercurio in più sulla sistolica, sulla massima, ai pazienti anziani, 150-90. Possiamo spostarci un pochino più in basso, al di sotto dei 130-80, nei pazienti che tollerano adeguatamente la terapia e hanno condizioni generali tali da non avere problemi con valori di pressione troppo bassi. Ma ancora oggi i valori di riferimento restano in maniera oltremodo saggia quelli di valori al di sotto di 140-90. Professor Borghi, ci sono tante persone che nonostante assumano terapie non riescono ad arrivare ai valori ottimali, quindi 90-140. Molti anche via SMS ci dicono: il mio problema è ho la minima alta, non si riesce ad abbassare questo valore. È da considerarsi comunque iperteso nonostante il valore della massima resti nei limiti? Sicuramente sì, e altrettanto le dirò che il fatto di avere soltanto la minima alta, che è un fenomeno che molto spesso affligge più la popolazione giovane rispetto alla popolazione di mezza età, deve essere anche un'indicazione per andare alla ricerca di forme secondarie di ipertensione, sia forme che abbiano una causa precisa, perché in generale lo svolgimento dell'incremento dei valori di pressione prevede un incremento maggiore della massima rispetto alla minima. Quando questo si inverte potrebbe non significare nulla, però in molti casi è associato alla presenza di una causa secondaria, quindi dovrebbe richiamarci a una diagnostica più attenta. Andiamo nella provincia di Milano. Marco, buongiorno. 800 24 00 24 per parlare con il professor Borghi. Apriamo il Medico Risponde. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti, a lei professore. Io ho 53 anni e sono iperteso già da 5 anni circa, trattato farmacologicamente, ma il mio problema proprio è la pressione minima. E non riesco, è sempre un po' ballerina, e dai 80, 87, 90 delle volte, se sono magari un po' non agitato. Riesco, e volevo sapere. Sì, mi dica. Sì, magari un po' agitato. E quindi Marco ridescrive la situazione che abbiamo appena tratteggiato, professore. Quindi è la minima che sì. Dà problemi a Marco. Quindi bisogna, il suo medico curante deve un po' andare a indagare? Sì, secondo me sì, probabilmente non ci sarà nulla di particolare. Però ovviamente neanche nello sviluppo di ipertensione c'è un andamento prevalente che segue una certa logica, non è del tutto casuale. Questo prevede che aumenti in generale prima la massima e poi la minima o viceversa. Quando si vede un aumento prevalente della pressione minima, soprattutto la pressione minima risulta più ostica da trattare con la terapia farmacologica, cosa che di solito non avviene. Nel nostro mondo il paradigma è che abbassare la pressione minima è facilissimo, ridurre la massima invece è un problema. Quando questo non avviene bisogna cercare se esiste una causa secondaria. Poiché tutti i meccanismi che di natura secondaria incidono su, diciamo, una serie di parametri che influenzano maggiormente la pressione minima rispetto alla pressione massima, questo deve indurre a fare qualche indagine un pochino più approfondita. Nulla di sofisticato, ma perlomeno cercare le cause principali di ipertensione secondaria deve essere assolutamente fatto. Andiamo a Giovanni che ci chiama da Lecce, prima di chiedere al professor Borghi di dare poi delle indicazioni molto pratiche e concrete su come cercare di ridurre i valori della pressione attraverso lo stile di vita, quindi quello che portiamo a tavola, ma anche le nostre abitudini, anche il sonno al suo peso. Giovanni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Da Lecce, una città bellissima. Grazie, siete tutti benvenuti. Grazie Giovanni. Ci dica. Guardi, velocissimamente, io ho 39 anni e sono iperteso fin dall'età di 30 anni, in particolare per la pressione minima, proprio il discorso toccato un attimo fa dal professore. Avevo 140-110 e non si discostava mai da quella misurazione. E 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa mi sono sposato e ho completamente cambiato il mio stile di vita. Vede. Perché mia moglie mi ha imposto dieta, mi ha fatto Deborah, vedi, senti qua da cosa ci dice no, Giovanni. Ma da uomo sposato l'ha rimessa in riga, insomma. Sì. L'ha guardi, fatto nuovo Giovanni, lo dica. Sì, devo dire di sì, perché mi ha fatto fare una dieta, è riuscita a farmi smettere di fumare ed è riuscita anche a portarmi in palestra per fare attività fisica. Ho perso 16 kg, sono ancora un po' in sovrappeso, però tant'è che a luglio scorso ho dovuto ricontattare il mio cardiologo perché probabilmente il farmaco che io prendevo per un cambio di stile di vita, certo, andava ritoccato. Quindi, infatti, l'ho meno che dimezzato, ho cambiato il principio attivo e c'è stato un aggiustamento della terapia conseguente, sì, proprio al cambio di stile di vita. Professor Borghi, quindi lei suggerirà nelle sue indicazioni anche sposatevi? Sicuramente sì, gli stava andando di traverso, vedi? Sì, no, ma non era per quello. Non c'entra, non era un riflesso alla sua domanda che approvo al 100%, dico sicuramente sì, soprattutto se ha la fortuna, se si ha la fortuna di trovare una moglie come quella del nostro ascoltatore, che a quanto pare o gli ha fatto modificare il suo atteggiamento oppure lo ha aiutato a cercare di trovare la strada giusta per migliorare i propri valori di pressione arteriosa, quindi sicuramente lo possiamo mettere tra i consigli. Per la verità, lei come sempre ha centrato la realtà. Gli scapoli e purtroppo i vedovi hanno in generale un peggior controllo dei valori di pressione arteriosa, questo è noto dalla letteratura, quindi come vede la sua, il suo sostegno al matrimonio e a dotarsi di una moglie è una cosa positiva anche Io posso dire che qua noi abbiamo già gli ospiti che scalpitano che per la seconda parte della trasmissione, ma non sono tanto d'accordo sul matrimonio. Invece ci sono i dati. Paolo Zucca, come mai eri così in disappunto? Abbiamo già delle palpitazioni per il bail-in, se ci mettete anche siamo un po' tutti sotto pressione anche per il prossimo argomento. Professor Borghi, allora, prima di salutarci, qual è il momento ideale per misurare la pressione e poi tre regole per tenerla sotto controllo? Il momento ideale è sicuramente il mattino. Il mattino è il momento in cui la pressione è più alta perché il nostro organismo reagisce alla necessità di svegliarsi aumentando la pressione. Quindi se è ben controllata nella prima parte della giornata, è verosimile che sia controllata anche nel resto della giornata. I tre consigli sostanziali sono, in primo luogo, misurarsela, perché se non c'è coscienza diventa abbastanza difficile intervenire. In secondo luogo, cominciare prima possibile, il che vuol dire applicando alla famiglia, ai bambini, regole di vita che siano fondamentalmente ispirate alla prevenzione, quindi muoversi, camminare, mangiare pochi zuccheri, mangiare poco sale, fare quelle cose virtuose che possono prevenire lo sviluppo di ipertensione. Terza, nel caso in cui ci troviamo in una situazione in cui l'ipertensione si è comunque sviluppata, prendere i farmaci in maniera sistematica e non considerarli un corollario della nostra vita, ma un amico che ci può aiutare a vivere meglio. Allora, noi salutiamo il professor Borghi ringraziandolo per essere stato in questa prima parte, di aver partecipato a Cuore Denari. Naturalmente sono arrivati tanti messaggi al 349-238-6666. Vi chiediamo di mandarci un'email e noi naturalmente vi metteremo in contatto con il professor Borghi, a cui chiederemo di darci una mano. Tanti sportivi che ci hanno dato la frequenza durante l'attività sportiva, i valori pressori e quant'altro. Professor Borghi, alla prossima, le auguro una buonissima giornata. Buona giornata anche dalla parte di Denari, che oggi un po' di palpitazioni la farà venire a qualcuno, ne farà venire. È durato poco più di 20 minuti il Consiglio dei Ministri, con all'ordine del giorno il decreto legge cosiddetto salva banche. Consiglio dei Ministri domenicale per varare il piano salva banche, sono quattro gli istituti di credito in crisi. Banca Marche, Banca Etruria, la Cassa di Risparmio di Ferrara e Carichieti. 20 minuti di riunione a mercati strachiusi, soldi però, va detto, non pubblici, nemmeno un euro, ma del sistema. Banche che salvano altre banche per eccoli guadagnare. Qua i titoli dei giornali, dei telegiornali delle ultime ore. Un giorno qualunque per i clienti, ma in verità da oggi tutto è cambiato per quattro banche italiane. Piccole sì, ma un dissesto formalizzato anche di solo una di queste quattro chissà che danni avrebbe provocato all'economia dei territori interessati, ma anche all'economia nazionale. Ieri un consiglio dei ministri straordinario e flash riunito di domenica ha approvato nella sostanza un piano di salvataggio per quattro istituti di credito italiani. Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e Carichieti. In pratica nasce una bad bank, poi vi spiegheremo che cosa sta dietro a questo concetto, dove verranno fatti confluire i crediti deteriorati di questi quattro istituti di credito. Un piano di salvataggio che non ha precedenti in Italia, che viene approvato prima delle nuove regole europee sui salvataggi bancari che entreranno in vigore dal 1 gennaio, il cosiddetto bail-in, ed è un piano di salvataggio che è stato approvato appunto ieri dal governo, perché solo ieri nel primo pomeriggio è arrivato un faticosissimo benestare da parte della Commissione europea. Allora, cosa cambia? È vero che i depositi dei correntisti di queste quattro banche ora sono più al sicuro di quanto non lo fossero fino solo a venerdì, con noi stamattina a spiegarci con termini semplici cosa contiene il provvedimento varato ieri dal governo. Paolo Zucca, lo avete già sentito poco fa, responsabile di Plus 24 del Sole 24 Ore. Ciao. Per dover scrivere di tutte queste cose ti è aumentata la pressione nelle ultime ore. Assolutamente sì, perché gli argomenti sono parecchi. E poi ringraziamo anche per essere con noi stamattina l'avvocato Fabrizio Vedana, che al volo ha accettato il nostro invito. Avvocato, buongiorno. Buongiorno, direttore generale dell'Unione Fiduciaria S.P.A. Peraltro è venuto dotato di tutta la documentazione necessaria per spiegare bene ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando. Ha scaricato dal sito del governo il testo del provvedimento varato ieri dal Consiglio dei Ministri, in più anche un altro documento della Banca d'Italia, vero avvocato Vedana? Che cos'è? Banca d'Italia ha fatto un'opera meritoria, ha fatto in 3 paginette un documento che riassume i 5-6 punti che di fatto riassumono il decreto del governo. Allora, glielo chiedo subito, avvocato, che significato ha questo provvedimento e quali ne sono i capisaldi? Grazie Deborah, una precisazione, sono vice direttore generale di Unione Fiduciaria. Io l'ho promossa sul campo, no, non era contento? No, va benissimo la carica di vice, sono soddisfatto di questa e me la voglio tenere stretta. Ecco, avendo preparato la trasmissione in 2 nanosecondi stamattina mi sono persa qualche pezzo per strada, perché noi Nicoletta siamo... sempre sull'attualità. Avvocato Vedana, ti è piaciuta? Allora, per la prima volta, volevo dire, per la prima volta un decreto legge dello Stato e con il decreto anche questo comunicato stampa di Banca d'Italia introduce il concetto della banca buona e della banca cattiva. Banca buona è la banca che viene a nascere in una notte. Si pensava che una volta le banche nascessero con mesi e mesi di faticose istanze autorizzative, e nascono in una notte 4 nuove banche, la nuova Banca Etruria, la nuova Banca Cassa di Risparmio di Ferrara, la nuova Cassa di Risparmio di Chieti e la nuova Banca Marche. Quindi, prima cosa, nascono 4 nuove banche, le insegne dovranno velocemente essere evidentemente aggiornate di tutti gli sportelli di queste banche. In una notte, quindi? In una notte sono nate 4 banche nuove. Le vecchie banche, che il decreto stesso e il documento di Banca d'Italia chiama banca cattiva, la bad bank, a cui facevi riferimento tu Deborah prima, sarà priva di licenza bancaria e avrà il solo compito di liquidare queste posizioni incagliate, esattamente, le sofferenze di queste banche, noi parliamo di sofferenze che confluiscono nella bad bank, avvocato Vedana, di che cosa parliamo? Quindi crediti deteriorati, mutui che non vengono ripagati, che cosa c'è esattamente sostanzialmente dentro? Questo, quindi quei crediti che la banca ha progressivamente portato in sofferenza perché non era stato possibile recuperarli, perché il soggetto a cui era stato prestato i soldi era magari una società fallita o in liquidazione a sua volta, quindi ha incontrato delle difficoltà. Lo Stato non subisce alcun costo in questo processo, dice Banca d'Italia in questo comunicato stampa, disponibile sul sito internet dell'organo di vigilanza, dà conto dell'impegno finanziario del neo istituito fondo di risoluzione, che non è il fondo di garanzia di tutela dei depositi, ma è un fondo di risoluzione di nuova istituzione, è stato istituito 2 giorni fa. Con che soldi? Con i soldi delle che altre banche. Tre banche in questo Intesa momento Intesa San Paolo, Unicredit e Ubibanca hanno prestato, quindi non regalato, prestato, hanno fatto un finanziamento ponte di circa 1.700.000.000 che dovranno essere restituiti alle 3 banche che hanno prestato i soldi al fondo di risoluzione, che grazie a questi soldi cosa farà? Sarà il socio unico delle nuove 4 banche, quindi della nuova Banca Etruria e delle altre 3 nuove banche, con un obiettivo ben preciso anche a carico del nuovo management di queste 4 nuove banche, trovare sostanzialmente un marito o una moglie per queste banche Per ridurre la pressione. Allora, intanto abbiamo sintetizzato la natura di questo provvedimento, grazie per la chiarezza l'avvocato Vedana, questa chiarezza che gli è sempre assolutamente abituale. Paolo Zucca, allora, 4 storie di crisi bancarie tra ieri e l'altro ieri, il Sole 24 Ore con Marco Ferrando, Luca Davi, Fabio Pavesi, avete tutti quanti insieme ricostruito le vicende di questi 4 istituti di credito che di fatto appunto vengono salvati da questo provvedimento. 4 piccole banche locali, tutte in attesa di essere salvate dopo anni di commissariamento e cavalieri bianchi, scriveva il Sole in questi giorni, in molti casi annunciati poi mai arrivati. Se le 4 vicissitudini sono piccole in sé, sono tutte insieme un grave problema per l'intero sistema bancario e per il paese. Qual è il filo rosso che accomuna queste 4 storie, Paolo? La pessima gestione e lo scarso controllo degli azionisti. E se vogliamo anche una certa sottovalutazione dei vigilanti e dei regolatori, perché queste banche sono in difficoltà da diverso tempo, ricordiamo che sono commissariate, quindi non c'è più un consiglio d'amministrazione, ed evidentemente c'era una scadenza, ed è la scadenza che naturalmente si sta avvicinando ancor più e che in qualche modo tocchiamo con mano questa mattina in questa velocissima trasmissione che siete riuscite a organizzare. Stiamo arrivando in zona bail-in. E io mi rendo conto che con tutti questi vocaboli, con tutti questi meccanismi non è facile. Bail-in, cominciamo a dire che è salvataggio dall'interno, cioè fatto prevalentemente da chi è azionista, da chi è obbligazionista e in ultimissima parte, se è il caso, ma non è questo il caso, eccetera, per chi ha depositi superiori ai 100.000 euro. Quindi il bail-in riporta a chi ha scelto quella banca rispetto al bail-out che era stato utilizzato in questo momento, dove i governi, gli stati, salvavano le banche. Lo Stato non salverà più le banche, lo diciamo chiaramente, lo diciamo da questi microfoni, come si dice. Lo Stato non salverà più le banche. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna scegliere meglio la propria banca, dove depositare i soldi, fare investimenti, eccetera. È un passaggio notevolissimo da spiegare ai risparmiatori. Sì, sì, noi abbiamo già fatto con l'avvocato Vedana delle trasmissioni, ma ne faremo noi, altre. Anche noi, cioè, siamo voi con plus è proprio questo weekend. Di titolare, ma chi glielo dice ai risparmiatori? Non so, che qualcuno si prende responsabilità di dire ai risparmiatori che ci sono delle nuove regole. E che quindi anche i risparmiatori devono sapere che, certo, cosa vuol dire. Ti faccio subito una domanda. Dai. Che in questo momento si faranno in molti, probabilmente, di coloro che ci stanno ascoltando. Allora, perché queste quattro banche non sono state lasciate al loro destino, quello che le avrebbe aspettate dal primo gennaio in avanti, ed è stato scelto invece questo provvedimento flash? In realtà si stava negoziando questo provvedimento con l'Europa da molte settimane. Padoan ha avuto degli scontri notevoli appunto a Bruxelles, proprio per avere il via libera e il benestare a questo pacchetto di salvataggio. Paolo, per quale motivo è stato fatto? Perché è giusto che ogni sistema bancario corregga i propri errori, anche se in questo caso stiamo parlando di banche piccole, ma sono ben quattro banche contemporaneamente, e la formula che è stata utilizzata in Italia è una formula, in questa occasione, è una formula che riporta alle altre banche gli errori fatti in queste quattro banche. Quindi il sistema bancario si accolla per intero, diciamo, il costo di questa operazione. Attenzione che adesso qualcuno sta scrivendo, dicendo così, ah, perché lo Stato non fa, perché lo Stato non fa. Ma lo Stato siamo noi. Quindi nella versione precedente, in verità, tutti noi pagavamo per sostenere delle banche mal gestite e dove obbligazionisti, azionisti sicuramente in fiducia, in un clima sicuramente di fiducia per queste banche, quindi la colpa non è loro, eccetera, stavano investendo. Quindi tutti pagavano una situazione. Mentre adesso con il bail-in, dal punto di vista formale, corretto. Certo. Poi magari... Se fosse stato il primo gennaio, oggi, avvocato Vedana, queste quattro banche, che cosa sarebbe successo? Io sono una correntista della Popolare dell'Etruria, ci avrei rimesso il mio denaro praticamente. Esatto. Detta proprio in maniera brutalissima, e ovviamente poi è chiaro che questi procedimenti avvengono in maniera ordinata, controllata, e non è che le persone vengono lasciate senza la possibilità di avere accesso al proprio conto corrente, eccetera. Di fatto il rischio però era quello. Il rischio era quello. È bene precisare una cosa: tutto vero quanto detto dal dottor Zucca, è anche vero che purtroppo qualcuno ne esce un po' con le ossa rotte. Eh sì, e ci stanno già scrivendo degli ascoltatori. C'è chi ha ancora in mano, in portafoglio, azioni della Popolare dell'Etruria, che peraltro non quota più da febbraio, ho ricostruito adesso dai grafici di Radio, no? È commissariata, per cui e probabilmente, diciamo, ancora che... non se ne erano accorti, perché se ci scrivono oggi, che è novembre, di una banca che non è possibile più maneggiare in borsa, posso dire una cosa politicamente molto scorretta? Posso dirlo? Certo. In senso lato, non per questa storia, in senso lato, un azionista, azione è naturalmente un titolo di rischio, deve sapere, è politicamente molto scorretta, deve sapere che sta rischiando potenzialmente tutto il suo capitale, l'azionista, certo. L'azionista, prego. Però poi ecco che effettivamente una persona non si accorga fino ad ora che queste azioni non sono più gestibili. Probabilmente quei risparmiatori che ancora non hanno vendute scommettevano su una fine diversa di questa vicenda, scommettevano sull'acquisto di queste banche da parte di un'altra banca con relativi acquisti. Certo, delle loro azioni. Conversioni, certo, non sarà esatto. Così. Purtroppo è bene essere chiari con i risparmiatori. Allora, che hanno so che azioni. Voleva aggiungere altro, avvocato, però io devo fare la borsa, sono già le 11.31. Faccio un mercato flash. Dopodiché anche perché vediamo come sono le banche in questa mattinata. No, sono tranquille. Sì, tranquille, sì, sì, non va tanto male. A tra poco. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Cuore e denari. Via libera al salvataggio delle quattro banche italiane malate, così le ha definite ieri il Sole 24 Ore: Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cari Chieti, che da qualche ora sono messe in sicurezza grazie a questo sforzo ripartito dall'intero sistema bancario italiano. E naturalmente noi stiamo parlando di questo provvedimento varato ieri da un Consiglio dei Ministri flash, solo ieri, perché proprio ieri da Bruxelles è arrivato il via libera a questo, tra l'altro anche contestato da molte parti, provvedimento, ma di fatto insomma quantomeno più rassicurante per tutti i correntisti di queste quattro banche, obbligazionisti ed anche azionisti, scopriamo, almeno a giudicare da chi ci sta scrivendo e chiamando all'800240024. Brutalmente prima interrotto l'avvocato Vedana, che voleva completare un ragionamento sulla scia di quanto detto da Paolo Zucca. Avvocato. Per la verità mi dispiace portare brutte notizie in radio, però per gli azionisti, quindi per coloro che hanno in mano titoli emessi da queste quattro banche, dalle vecchie banche, questo decreto non è una buona notizia, perché le loro azioni sono azzerate o quasi quanto al loro valore, perché non saranno più azionisti della nuova banca nata nella notte, alla quale verranno trasferiti, sono stati trasferiti gli asset positivi, ma rimarranno azionisti della bad bank. Cosa vuol dire bad bank, essere azionisti della bad bank? La bad bank, o banca cattiva come la definisce Banca d'Italia in questo comunicato stampa, avrà il compito di portare a casa i soldi che residuano grazie alle sofferenze che sono state lasciate nelle vecchie banche. L'azionista dovrà scommettere sul fatto che questa liquidazione coatta della vecchia banca possa portare a casa dei soldini, certo, e su quelli fare la ridistribuzione tra gli azionisti. Allora, Paolo Zucca tra un po' deve lasciarci, lo aspetta una riunione al Sole 24 Ore. Paolo, allora ti chiedo, sulla scia di quanto ci stanno chiedendo gli ascoltatori direttamente interessati a queste vicende, allora la differenza su quello che succederà adesso ai correntisti di queste banche, azionisti, come diceva l'avvocato Vedana, abbiamo già capito, questa vicenda riguarda in particolar modo la Popolare dell'Etruria, che da quando è commissariata non è più regolarmente negoziata, certo, in borsa, e questo è da febbraio scorso, ma ci sono anche molti detentori di obbligazioni senior e subordinati, come ci scrive Laura da Prato. Allora, intanto, che tipo di obbligazioni sono queste? Perché si chiamano subordinate? Perché sono subordinate ad altri nella restituzione, altri obbligazionisti, obbligazionisti, eccetera. Quindi in questo caso sono, diciamo così, in un'area di maggiore rischio. Degli azionisti, Vedana ha già parlato ed è corretto, anche se è drammatico. Pensiamo ad esempio ai risparmiatori che hanno investito in azioni dell'Etruria, non hanno avuto neanche la possibilità di vendere in questi mesi. E quindi il titolo era stato congelato. Quindi la situazione è particolarmente pesante per gli azionisti. Esatto, c'è chi ci scrive addirittura che ha un investimento tipo da 80.000 euro che probabilmente non ne recupererà più, un po' come è successo all'epoca con Parmalat, e quindi situazioni ovviamente differenti per business, però ecco, chi era azionista di quelle società non ha recuperato più. Ricordiamo anche che nella storia bancaria italiana c'è stato un Banco Ambrosiano che in una notte, cosa che affascina molto Nicoletta eccetera, è diventato nuovo Banco Ambrosiano gestito da Bazzoli eccetera. Quindi diciamo così, è una sistemazione, poi vengo alla risposta puntuale, certo, sulla tua domanda. È una sistemazione dall'interno, da parte del sistema bancario, degli errori degli amministratori e dei soci, anche dei grandi soci, le fondazioni di queste banche, e una sistemazione che non è traumatica. Cosa vuol dire? Non avere le banche chiuse quest'oggi, avere i conti correnti bloccati eccetera. Quindi da questo punto di vista anche la reazione che sta avendo in borsa il sistema bancario è significativa, esatto, di una soluzione che è stata trovata, che è l'esborso per in forma di prestito, quindi non sono soldi persi, fatto da Unicredit, Intesa, UBI inizialmente e poi anche gli altri, non è vissuto come drammatico, anzi ho visto una dichiarazione sindacale che plaude a questo intervento positivo. Quindi azionisti, situazione. Posso metterci insieme la domanda di Ardito da Modena, che ci chiama all'800240024. Del Consiglio dei Ministri, esatto, possiamo fare tutto. Dai. Ardito, benvenuto. Sì, grazie a voi, sempre Nicoletta e Deborah, che si informate quotidianamente. Grazie. Che succede? La risposta, meno male, dell'avvocato l'abbiamo già avuta, io sono un piccolo azionista, che sia vecchio azionista anche nell'aumento di capitale. Quindi noi perdiamo tutto completamente, giusto? Come dicevo, allora, sì, tra l'altro, Cassa di risparmio di Ferrara è quotata in borsa, Paolo? No, no, no. Quindi no. Azioni di banca non quotate, esattamente come per la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, tanto per infierire sul povero ardito. Sì, poveri. Però possiamo fare anche la differenza, cioè, sui titoli liquidi, sulle problematiche di queste banche. Sì, per il momento Veneto Banca, e abbiamo convinzione che sarà così anche nelle prossime settimane, prossimi mesi, eccetera, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, che piacciono o non piacciono, conti buoni, conti cattivi, ma sono gestiti da un consiglio d'amministrazione. Esatto, non sono commissariate come erano le quattro di cui stiamo parlando stamattina. A fare, diciamo, posizioni diverse. Mm-hmm. Però intanto non consentono di liquidare né azioni né obbligazioni ai propri risparmiatori. Come sapete, la trasformazione in SPA è vincolata, legata, e dovrebbero farlo rapidamente, anche se ci saranno un mal di pancia anche lì, alla quotazione. E quindi probabilmente il prezzo, il valore, prenderà un valore di mercato, cioè quello che il mercato valuta quelle azioni. Era inutile, e abbiamo visto alla lunga dannoso, e confondeva averle ai valori patrimoniali. Comunque, pensando, se Ardito in questi mesi avesse chiesto più volte, perché adesso bisognerebbe vedere se lui ha documentazione che lo attesti o meno, se avesse chiesto più volte magari il disinvestimento da queste azioni, la banca non lo avesse mai accontentato, poi in qualche maniera rivalersi, avvocato Vedana, dal punto di vista legale, per dire, insomma, la banca non ha adempiuto, si dice questo termine orribile, ad un comportamento, la banca non deve comprare le azioni del socio che non deve non quotate, non deve, c'erano dei margini prima col fondo azioni proprie, adesso non so se vedano la stessa opinione, però non le deve comprare, semmai deve favorire dei meccanismi, listini trasparenti dove nessuno scavalca un altro, per poterli vendere a un altro socio in entrata, quindi soci in uscita e soci in entrata. Avvocato, ci può supportare dal punto di vista del parere legale? È ineccepibile quello che ha detto Zucca, corrisponde a verità assoluta, ma ecco. No, è così, nel senso, il titolo quotato ha uno scambio sui mercati, ovviamente se il titolo quotato non ha più scambi, va da sé, certo, che è difficile venderlo. Se il titolo non è quotato, ed era il caso di tre delle quattro banche, c'è la logica del compravendita nell'ambito di panieri organizzati da banche, ovvero vai alla ricerca di qualcuno interessato a comprartelo. Se in questi mesi l'ascoltatore non ha trovato un compratore, è evidente che, certo, è difficile poter dire alla banca non mi hai dato la possibilità di venderlo. Non era compito della banca trovargli un compratore del suo titolo. E chi se lo deve trovare? Il cliente, il compratore, però, mi scusi. Beh, è come quando compri titoli dell'ENI piuttosto che di altri titoli, sì, quotati o non. Queste sono società che hanno un mercato estremamente liquido, ci sono anche dei meccanismi di intermediazione che però sono un po' più semplici. No, l'abbiamo segnalato da tempo, ma veramente da tempo, mi pare del primo pezzo del 2006, che c'erano lettori che ci scrivevano a Plus 24, non riusciamo a vendere le azioni. È chiaro che prima le banche avevano dei margini con un fondo di acquisto di azioni proprie, ora non è più possibile. Certo. Comunque, risposta le obbligazioni subordinate le abbiamo risposte. Il risultato sono ovviamente a rischio. Le senior sono già leggermente meglio. Sui conti correnti, fate attenzione su questo aspetto qui. Allora, in questo momento non vengono toccati in nessun modo i conti correnti, neanche sopra i 100.000 euro. C'è questo vincolo dei 100.000 euro. In caso di depositi presso una banca che va in crisi, ma non in crisi, diciamo così, che un consiglio di amministrazione quindi commissariate, quindi in gravissimo default, eccetera, i depositi, conti correnti superiori ai 100.000 euro possono essere utilizzati, sebbene in ultimissima istanza. Quindi noi diciamo state sotto i 100.000 euro di liquidità, ve lo dico anche da un altro punto di vista, essendo, diciamo, in questo momento in un quello prodotto di risparmio, la concentrazione, eccetera, del risparmio, insomma. Ma solamente anche in termini, scusate, di remunerazione, cosa tenete a fare 100.000 euro, più di 100.000 euro sul liquidi, conto che non rendono corrente, niente, che... perché bisogna sempre diversificare. Brava. Perché ogni tanto mi sbaglio col differenziare, ma diversificare, ma più e o meno alla luce di quello che è accaduto, però, nelle ultime ore lo comprendiamo ancora mi di più. Paolo, vai tanto, guarda, sono certa che ti chiameremo nei prossimi l'argomento giorni, perché oggi è caldissimo, quindi anche noi stiamo cercando di capire che cosa succede. Adesso spremo a dovere l'avvocato Vedana, sì, anche perché non riesce d'ora a stare molto lontano da Cuore Denaro. No, neanche Paolo, lui, no, no. Neanche lui gli piace quell'adrenalina, quella pressione che gli facciamo l'idea salire. L'idea che Nicoletta stia ancora pensando come hanno fatto a correggere tutte le insegne stanotte. Ciao a tutti. Allora, non invitiamolo più, vedi che no, mi prende, no, dai, invitiamolo, dai. Ma perché tu vuoi solo Borghi che ti fa un sacco di complimenti? Mi piace. Adesso sentiamo il traffico, a tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. Salvami, mi fa male. Parliamo del via libera al salvataggio delle quattro banche italiane, piccole ma comunque commissariate in grande difficoltà da molti anni. Sono la Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Carichieti. Ieri un Consiglio dei Ministri flash ha varato questo provvedimento, che aveva nelle ore immediatamente precedenti alla riunione del governo avuto il via libera da parte della Commissione Europea. Servono 3 miliardi e mezzo abbondanti di euro per il salvataggio e sono al momento appunto le banche italiane sane, le più grandi, a mettere sul piatto questo denaro. Ci sta spiegando, è andato via Paolo Zucca, caporedattore di Plus 24 del Sole 24 Ore, è rimasto con noi l'avvocato Fabrizio Vedana, vice direttore generale di Unione Fiduciaria SPA, che ci sta spiegando lo spirito, la filosofia, il senso di questo provvedimento e soprattutto le ricadute sul piano pratico per correntisti, azionisti, obbligazionisti. E abbiamo capito che intanto gli azionisti di queste società, soprattutto per quelle che non erano quotate, è la situazione appunto più delicata, più difficile, perché a questo punto hanno perso tutto il loro investimento. Detta in maniera brutale, avvocato Vedana, questa è la conclusione che traiamo. Chi sentiamo, Nicoletta? Chi era che era in attesa da un po' al nostro microfono? Mi sembra Antonio, esatto. Da Latina. Buongiorno Antonio, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno a voi, Nicoletta e Deborah, complimenti al vostro ospite. Grazie. Dunque, la prima è una considerazione di fatto. Domenica sera si riunisce il Consiglio dei Ministri, poi c'è un'emergenza, qualcuno ci sta attaccando, ci hanno dichiarato guerra o si stanno a fare cose losche. Ma veramente il Sole 24 aveva preannunciato questo Consiglio dei Ministri, lei dice non tutti ma lo leggono. Domenica sera in piena emergenza, gli attacchi terroristici, insomma se passa riunione quatti la cosa mi fa pensare. Quasi che è meglio aver salvato quattro banche, che cosa le devo dire? Bisogna vedere chi abbiamo salvato. Io tanto premetto che c'è una piccola ditta individuale che chiuderò, a me nessuno mi aiuta, non si riunisce nessuno, 64% di tasse mi hanno strangolato, sto morendo, e come me migliaia di altre attività commerciali, artigianali, ma non gliene può fregare nemmeno a nessuno. L'altra domanda che faccio al vostro ospite, vorrei una risposta precisa, chi è il proprietario della Bad Bank? Perché da quello che mi risulta, questo denaro non più esigibile, che poi non sono altro che i vecchi derivati, questa è la bolla della storia che nasce negli Stati Uniti e che si viene a ripercuotere anche qui da noi. Io voglio sapere chi ci metterà poi i soldi in questa Bad Bank. C'è il vago sentore che saremo noi cittadini italiani, perché le banche che oggi stanno sostenendo questo appunto salvataggio, che è Banca Intesa, se non ho capito male, Unicredit e Ubi, sì, per adesso. In realtà entro la fine dell'anno probabilmente anche un altro gruppo di banche sarà chiamato, a seconda la quota che deve, ad intervenire appunto in questo fondo di risoluzione, come si chiama in gergo tecnico finanziario. Antonio, la ringrazio, la chiudo brutalmente, non per maleducazione ma perché abbiamo altri ascoltatori e pochissimo tempo purtroppo. Avvocato Vedana, chi è chi sta a capo della Bad Bank? Allora, lo vuole sapere in maniera chiara l'ascoltatore. Leggo il virgolettato di Banca d'Italia. È stata costituita una banca cattiva, Bad Bank, priva di licenza bancaria nonostante il nome, in cui sono stati concentrati i prestiti in sofferenza che residuano una volta fatte assorbire le perdite. Quello che è successo in Spagna per salvare il sistema bancario. Perfetto. Qualche anno fa, solo che là si sono rimessi in pista molto rapidamente. I prestiti in sofferenza, svalutati a 1,5 miliardi dall'originario valore di 8,5 miliardi, saranno venduti a specialisti nel recupero crediti o gestiti direttamente per recuperare al meglio. Gli azionisti della Bad Bank rimarranno gli attuali azionisti di queste banche, delle vecchie banche. È un organismo comunque vigilato dalla Banca d'Italia nella sua operatività e attività adesso, no? Di fatto rimarrà vigilato per il tempo necessario per esaurire il suo lavoro. Dovrà rispondere la Bad Bank alla sua attività a qualcuno, quindi Banca d'Italia in primo luogo, credo che anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze andrà ad effettuare gli opportuni controlli. Assolutamente. Detto questo, Carla da Roma, benvenuta. Buongiorno Deborah e Nicoletta, io non ho seguito il vostro consiglio e non ho diversificato, tutti i miei risparmi sono in un conto deposito di Banca Marche. Guardi Carla, che noi pontifichiamo sempre, ma non è facile, perché anche la diversificazione per un piccolo risparmiatore, questo è un aspetto che ho tante volte contestato anche agli esperti che vengono qua a dirlo, costa la diversificazione, cioè avere 300.000 rapporti con diversi fondi di investimento o tanti, quindi Carla la comprendiamo e ha ragione pure lei, perché non è che tutti quanti possono fare tutte queste grandi operazioni, chiusa parentesi Carla, quindi non si preoccupi, ci racconti. che cosa devo fare e aiutatemi, perché se li perdo sono finita. No. Allora, sul conto di deposito, Carla, non le succede niente assolutamente al momento, proprio in virtù del provvedimento varato ieri. Avvocato Vedana. È così. Quindi i correntisti, i depositanti, coloro che hanno libretti di deposito presso una di queste quattro banche, vecchia denominazione o nuova denominazione non cambia, quindi sarà così per i vecchi e anche per i nuovi clienti che da oggi aprono un conto in una di queste banche con la nuova insegna, possono stare immaginiamo che non ci sarà la corsa, ecco, ad andare ad aprire, ma non scommetterei, perché queste banche saranno costrette a questo punto a fare raccolta, e quindi anzi io mi aspetto che queste banche facciano delle belle raccolte, a fare offerte, quindi state sereni, comprate, sottoscrivete i libretti, i conti deposito. Il suggerimento che ha dato il dottor Zucca credo sia condivisibile, stando attenti, uno, alla diversificazione, due, al limite dei 100.000 però euro. Però Carla una cosa secondo me la può fare, allora, detto che il suo denaro non corre nessun rischio, Carla, per cui glielo voglio incidere sulla pietra, come dico sempre, quindi stia tranquilla, però una prova potrebbe farla, intanto magari guardarsi intorno, trovare una soluzione di investimento in un'altra banca priva di rischio, esattamente, che è la caratteristica principale questa del conto di deposito, e verificare che cosa le rispondono adesso, una questa nuova banca nata stanotte, lei ha tutto il diritto di fare il suo disinvestimento, magari ci perde un po' di interesse perché era probabilmente era un conto di deposito vincolato, quindi aveva una promessa di rendimento se il denaro rimaneva immobile per un tot di tempo. Detto questo, rinunciando a un po' di remunerazione inizialmente pattuita, provi a cominciare a disinvestire, ad andare in un'altra banca, magari una grande, una gigantesca, che così lì insomma siamo più tranquilli. Purtroppo in questo momento l'unico suggerimento che si può dare, credo che sia questo, avvocato, non lo so, eh. Io non direi, perché io voglia che voi portiate i soldi prendere... a Unicredito, a Intesa, non me ne importa proprio un bel niente, però certamente quella di sistema gigantesca forse tutela un po' di più. Capisco l'ascoltatrice, ma non facciamoci prendere troppo dal panico di in questo momento. Il decreto sicuramente ha fatto bene alla fiducia dei risparmiatori. Il conto corrente, il deposito titoli non è toccato, quindi aspettiamo a fare scelte troppo affrettate, valutiamo, informiamoci e poi decidiamo. Ecco, informiamoci, esatto, e quindi ricordo, invito alla lettura di Donne di Denari, il libro di Deborah Rosciani, che apre gli occhi, non fa moltiplicare i denari, ma sicuramente ci aiuta. Bene, allora magari se metterli. Ce la facciamo, se abbiamo le idee un po' più chiare, entro qualche giorno ci ritorniamo su questo argomento. Si tenga pronto come ha fatto stamattina, avvocato Vedana, la ringrazio per aver cancellato tutti i suoi appuntamenti dalla mattinata, essere corso da noi. Nicoletta, dobbiamo salutarci. Sì, noi ci sentiamo domani. Buona giornata.